Terzo anello, ad alta voce. Il gioco delle perle di vetro, di Hermann Hesse. Troviamo in quel tempo Knecht occupato in un lavoro di una certa mole. Poiché, a differenza delle due volte precedenti, prese parte al concorso annuale dell'élite di Walzel. In quel concorso bisognava elaborare, in base a 3 o 4 temi prescritti, progetti di giochi delle perle. Si apprezzavano molto nuovi, audaci e originali intrecci di temi, accompagnati dalla massima pulizia formale e calligrafica, e quella era l'unica volta in cui si permettesse ai concorrenti di trasgredire il canone. Si aveva cioè il diritto di servirsi anche di nuove cifre, non ancora accolte nel codice ufficiale e nel tesoro dei geroglifici. Per questa volta, Knecht rinunciò a usare nuovi valori del gioco, di cui, come quasi tutti i candidati, ne aveva pronti parecchi, né approfittò dell'occasione per professare il metodo psicologico, come sarebbe stato conforme alla sua mentalità. Costruì un gioco di struttura moderna e con temi personali, ma soprattutto composto con trasparenza classica e svolto in rigorosa simmetria, con ornamenti moderati e con una grazia degna dei maestri antichi. Abbiamo usato l'espressione metodo psicologico, che forse non riuscirà comprensibile a tutti. Ai tempi di Knecht era frase d'uso quotidiano. V'erano infatti a quel tempo correnti, mode, battaglie, diverse vedute e interpretazioni fra gli iniziati al gioco delle perle, e le discussioni vertevano soprattutto intorno a due concezioni di esso. Se ne distinguevano due tipi, il formale e lo psicologico, e noi sappiamo che Knecht, come Tegularius, il quale però si asteneva dal dibattito, apparteneva ai seguaci e fautori del secondo, salvo che Knecht, invece di discorrere della maniera psicologica, preferiva dire pedagogica. Il gioco formale mirava a fare dei contenuti oggettivi di ciascun gioco, contenuti matematici, linguistici, musicali, eccetera, un'unità possibilmente compatta e senza lacune, e un'armonia formalmente perfetta. Il gioco psicologico, invece, non cercava l'unità e l'armonia, la completezza e perfezione cosmica nella scelta e disposizione, nell'intreccio e collegamento, nella contrapposizione dei contenuti, quanto piuttosto nella meditazione susseguente a ogni tappa del gioco, e a questa meditazione si dava la massima importanza. Quel gioco, dunque, col quale Knecht partecipò al grande concorso, era di costruzione formale, non psicologica. Knecht indusse padre Jacobus a inviare un breve scritto alla suprema autorità Castalia, nel quale il padre si dichiarò favorevole circa la nota questione diplomatica, non senza aggiungere la preghiera di lasciargli ancora per qualche tempo Josef Knecht, il giocatore di perle, qui ben voluto da tutti, che lo degnava di un corso particolare De Rebus Castaliensibus. Si intende che l'altra parte considerò un onore venire incontro a quel desiderio. A sua volta, Knecht, che aveva creduto di essere ancora ben lontano dal suo raccolto, ricevette un elogio firmato dalla direzione dell'ordine e da Dubois per avere così bene svolto la missione ricevuta. La parte che in quello scritto ufficiale gli parve lì per lì più importante e gli fece il massimo piacere era un breve periodo in cui si diceva che l'ordine era stato informato dal maestro del gioco delle perle circa il suo desiderio di ritornare nel Vicus Lusorum ed era ben disposto ad accontentarlo quando l'incarico fosse condotto a termine. Knecht lesse questo passo anche a padre Jacobus e gli confessò quanto gli facesse piacere. Dichiarò anche quanto avesse temuto di essere bandito per sempre dalla Castalia e di venire inviato a Roma. Il padre rispose ridendo: caro mio, gli ordini sono fatti così. Si preferisce vivere nel loro grembo, anziché alla periferia o addirittura in esilio. Lei potrà dimenticare tranquillamente quel po' di politica nella cui impura vicinanza è capitato, perché non è certo un uomo politico, ma non dovrebbe tradire la storia, anche se questa dovesse restare per lei una materia secondaria e dilettantesca. Non le manca infatti la stoffa dello storico. E ora, finché ho il piacere di averla qui, cerchiamo di trarne reciproco vantaggio. A quanto pare, Knecht approfittò poco del permesso di fare visite frequenti a Waldzell. Ascoltò però all'apparecchio un corso di esercitazioni e parecchi giochi e conferenze. In tal modo, anche da lontano, standosene seduto nella bella stanza del monastero, partecipò a quella solennità durante la quale, nella sala delle feste del Vicus Lusorum, furono comunicati i risultati del concorso a premi. Egli aveva presentato un lavoro non molto personale e niente affatto rivoluzionario, ma serio e molto elegante, del quale conosceva il valore e si aspettava una menzione onorevole oppure un terzo o un secondo premio. Con sua sorpresa udì invece che gli era stato assegnato il primo e, avanti che la sorpresa potesse tramutarsi in gioia, l'annunciatore dell'ufficio del gioco disse che il secondo premio era toccato a Tegularius. Era certamente un fatto delizioso e commovente che entrambi uscissero vittoriosi da quella gara. Knecht si alzò e, attraversando di corsa i corridoi sonanti, scese all'aperto. In una lettera scritta in quei giorni al vecchio Magister Musicae leggiamo: «Sono molto felice, riverito maestro, come puoi immaginare. In primo luogo per l'adempimento della mia missione e il lusinghiero riconoscimento da parte della direzione, insieme con la speranza di ritornare presto in patria, tra gli amici e il gioco delle perle, invece di continuare nel servizio diplomatico. E poi per questo primo premio, per un gioco nel quale ho faticato parecchio, è vero, dal lato formale, ma che per buone ragioni non esaurisce tutto ciò che potrei fare. E per giunta, la gioia di condividere questo trionfo con un amico. È stato quasi troppo in una volta sola». Knecht aveva deliberato di fissare il ritorno definitivo a Waldzell per la primavera, nel periodo del pubblico grande gioco delle perle, del Ludus Anniversarius o Solemnis. Benché il punto culminante nella memorabile storia di questi giochi, cioè l'epoca dei giochi annuali, che duravano settimane ed erano frequentati da dignitari e rappresentanti di tutte le parti del mondo, fosse già superato e appartenesse per sempre alla storia, quelle sessioni primaverili coi giochi solenni, che duravano per lo più da 10 o 15 giorni, erano pur sempre, per tutta la Castalia, il grande avvenimento dell'annata, una festa a cui non mancava una certa importanza religiosa e morale, poiché riuniva i rappresentanti di tutte le mentalità e tendenze della provincia e riconciliava gli egoismi delle singole discipline, destando il ricordo di quell'unità che era al di sopra della loro molteplicità. Era una festa che, per i credenti, possedeva la potenza sacramentale della genuina religiosità, mentre per i miscredenti era, se non altro, un surrogato della religione e, per gli uni e per gli altri, un bagno nelle pure fonti del bello. Questa volta, però, il Ludus Solemnis non riuscì ad essere sfiorato dal soffio del miracolo e a toccare un alto grado di efficacia e di religiosità. Fu anzi un gioco poco lieto, decisamente sfortunato, quasi un fallimento. E se anche molti partecipanti se ne sentirono edificati ed elevati, i veri organizzatori e responsabili avvertirono quell'atmosfera sorda e spietata di insuccesso, quell'aria di ostilità e di disdetta che minacciava la festa. Knecht, sebbene anche lui lo sentisse e provasse una certa delusione dopo quanto si era aspettato, non era tra quelli che più chiaramente avvertirono la sfortuna. Siccome non era tra i giocatori e i responsabili, poté prendere parte in quei giorni con devozione e seguire con piacere il gioco, che era intelligente e ben costruito, anche se non arrivava alla piena fioritura e alla grazia. Poté terminare indisturbato le meditazioni e compiere in se stesso, con devota gratitudine, l'esperienza del festeggiamento e del sacrificio, ben nota a tutti coloro che seguirono il Ludus Solemnis, nonché l'unione mistica della comunità davanti al divino, come la può dare anche un gioco che la cerchia ristretta degli iniziati considera fallito. In ogni caso, però, anche lui subì l'influsso della cattiva stella che dominò quel Ludus. Il gioco stesso, il suo piano e la sua costruzione erano senza difetti, come tutti i giochi del maestro Thomas. Era anzi uno dei suoi più semplici, più immediati ed efficaci, ma ebbe luogo sotto un astro particolarmente maligno, e ancora lo si ricorda negli annali di Waldzell. Quando arrivò a Waldzell, una settimana prima dell'inizio delle celebrazioni, Knecht si presentò al villaggio dei giocatori. Non fu ricevuto dal maestro del gioco delle perle, ma dal suo sostituto Bertram, il quale, laconico e distratto, gli comunicò che il reverendo maestro si era ammalato in quei giorni e che lui, Bertram, non era abbastanza informato dell'incarico di Knecht per ascoltarne la relazione. Lo pregava quindi di recarsi a Irsland, presso la direzione dell'ordine, di annunciare il suo ritorno e di attendere istruzioni. Siccome Knecht, col prendere commiato, involontariamente tradì con la voce e col gesto un certo stupore per la freddezza e brevità con cui era stato ricevuto, Bertram presentò le sue scuse. Il collega gli perdonasse se lo aveva deluso, ma cercasse di comprendere la situazione particolare. Ammalato il magister, imminente il grande gioco annuale, ancora molto incerto se l'avrebbe potuto dirigere il magister o non dovesse subentrargli lui, Bertram. La malattia non poteva capitare in un momento meno favorevole e più delicato. Egli era pronto a sostituire il magister nel disbrigo degli affari, ma temeva di non avere forze sufficienti per preparare il grande gioco in un termine così breve e assumerne la direzione. Knecht compianse il pover'uomo, evidentemente triste e un po' disorientato, e si rammaricò all'idea che la responsabilità della festa dovesse essere affidata a quelle mani. Troppo tempo era stato assente da Waldzell per sapere quanto fossero fondati i timori di Bertram, poiché questi aveva perso da qualche tempo la fiducia dell'élite, dei cosiddetti ripetenti, che per un sostituto è sempre quanto vi può essere di peggio, e realmente si trovava in grandi difficoltà. La situazione del sostituto del magister, detto anche Ombra, particolarmente nell'ufficio della musica e del gioco, è molto singolare. Ciascuno dei magistri ha un sostituto che non gli è messo al fianco dalle autorità, ma che egli stesso sceglie nella ristretta cerchia dei candidati, e questi ha la completa responsabilità delle azioni e della firma del maestro che sostituisce. La sua situazione eccezionale appare evidente soprattutto in due punti. Il sostituto non ha la responsabilità dei suoi atti ufficiali e non può salire di grado entro la gerarchia. Non è una legge scritta, ma la si desume da tutta la storia della Castalia. Dopo la morte e le dimissioni di un magister, non è mai successo che la sua ombra ne prendesse il posto. Eppure, per averlo tante volte sostituito, poteva sembrare predestinato a raccoglierne la successione. Maestro Thomas von der Trave aveva fatto dunque lavorare da tempo un'ombra di nome Bertram, che, a quanto pare, difettava più di fortuna che di ingegno o buona volontà. Era, come è ovvio, un eccellente giocatore di perle, un maestro perlomeno non inabile e un funzionario coscienzioso, pienamente devoto al suo maestro. Eppure, durante gli ultimi anni, si era reso piuttosto antipatico ai funzionari e alla giovane generazione dell'élite, e siccome non possedeva il carattere limpido e cavalleresco del maestro, la sua calma e sicurezza ne erano turbate. Soltanto alla vigilia del gioco fu diramata la notizia ufficiale che il magister, gravemente ammalato, non sarebbe stato in grado di dirigere il gioco. Non sappiamo se la comunicazione fu ritardata per espressa volontà dell'infermo, che forse fino all'ultimo istante sperava di risollevarsi e di assumere la presidenza. È probabile che stesse già troppo male per concepire questo pensiero e che sia stata la sua ombra a commettere lo sbaglio di lasciare la Castalia fino alla penultima ora nell'incertezza. Certo, si potrebbe ancora discutere se quel tentennamento sia stato davvero uno sbaglio. Si agì certo in buona fede per non screditare la festa in anticipo e per non tenerne lontani gli ammiratori di maestro Thomas. E se tutto si fosse svolto bene, se fra Bertram e i giocatori di Waldzell fosse regnata la fiducia, possiamo ritenere che l'ombra avrebbe potuto realmente sostituire il magister e non farne sentire troppo l'assenza. Ma è inutile formulare altre ipotesi. Abbiamo creduto soltanto di dover accennare che Bertram non era proprio l'uomo inetto o addirittura indegno che l'opinione pubblica di Waldzell voleva che fosse. Era molto più vittima che colpevole. Fin dal secondo giorno si sparse la voce che Magister Thomas era aggravato e in pericolo, e quella sera stessa si udirono dappertutto i primi contributi alla leggenda che a mano andava formandosi intorno al maestro infermo e alla sua ombra. Secondo questa leggenda, che partiva dalla cerchia più intima del Vicus Lusorum, cioè dai ripetenti, il maestro aveva la volontà e avrebbe avuto la capacità di dirigere il gioco, ma si era sacrificato all'ambizione della sua ombra, affidandogli quel compito. Vedendo però che Bertram non era proprio all'altezza di esso e che il gioco minacciava di diventare una delusione, l'ammalato, sapendosi responsabile e del gioco e di Bertram e del suo insuccesso, si sarebbe proposto di pagare per lui, tale e nessun'altra, la causa del suo rapido peggioramento e dell'aumento della febbre. Dopo un altro giorno si udì che dal suo letto il maestro aveva scongiurato il sostituto e due anziani dell'élite a metter pace e a non guastare l'esito della festa. Il giorno seguente si disse che aveva dettato le sue ultime volontà e segnalato alle autorità l'uomo che si augurava come successore. Si facevano anche i nomi. E quando, nella penultima giornata, Magister Thomas chiuse gli occhi per sempre, le autorità, nonostante ogni cautela, non riuscirono a impedire il diffondersi della notizia e, strano caso, parecchi partecipanti considerarono quello scioglimento come una liberazione. Josef Knecht sentiva perfettamente il velo tragico che si stendeva su tutti. Pensava, preoccupato e dolente, al maestro e, con sempre maggior disagio e pietà, alla sua ombra, condannata a morire con lui. Ma resisteva fermamente a ogni influsso di notizie autentiche e leggendarie, si concentrava con molto rigore, si dedicava volentieri alle esercitazioni e all'andamento del gioco, così ben costruito, e, nonostante le dissonanze e i punti oscuri, assisteva alla festa con serietà ed entusiasmo. Subito dopo la conclusione musicale della festa, le autorità comunicarono la morte del Magister, sicché nel Vicus Lusorum ebbero inizio le giornate di lutto, alle quali prese parte anche Josef, che abitava nella foresteria. Le esequie dell'uomo benemerito, la cui memoria è oggi viva e stimata, si celebrarono con la consueta semplicità castalia. Bertram, l'ombra, che aveva terminato la sua difficile parte facendo appello alle sue estreme energie, si rese conto della propria situazione, chiese licenza e andò in montagna. Nel villaggio dei giocatori, anzi in tutta Waldzell, regnava il lutto. Nessuno forse aveva avuto relazioni intimamente amichevoli col defunto Magister, ma la superiorità e integrità del suo nobile carattere, insieme con la sua saggezza e con uno squisito senso delle forme, ne avevano fatto un reggente rappresentante come la Castalia, pur organizzata secondo perfette norme democratiche, non ne produceva in tutti i tempi. Tutti erano orgogliosi di lui. Intanto, alti e altissimi funzionari della direzione dell'ordine e dell'autorità pedagogica comparivano ogni giorno nel villaggio dei giocatori, e singoli appartenenti dell'élite o al corpo dei funzionari erano convocati di continuo per certi interrogatori del cui argomento si sapeva qualcosa solo entro l'élite stessa. Anche Josef Knecht fu invitato più volte e interrogato. Già durante le giornate del gioco, Josef aveva notato quanto poco fosse rimasto degli stretti legami di una volta con l'élite, e durante il periodo del conclave lo sentì ancora meglio. Non che abitasse nella foresteria come un estraneo e che i superiori lo trattassero come un loro pari. L'élite stessa, i ripetenti, non lo accolsero più come un compagno in confidenza, bensì con una cortesia ironica o almeno con la freddezza di chi è indeciso. Si erano staccati da lui fin da quando era stato mandato a Mariafels, ed era giusto e naturale. A quel tempo, però, egli sentiva più che mai quella distanza e freddezza, anzitutto perché l'élite, essendo orfana e aspettando un nuovo magister,